Aiuta, menino! Non lo vedi che sto morendo? Se vero fumo! Dalla strada la vociata di un caruso che correndo gridava la notizia a un compagno rimbalzò dentro le persiane della camera dove Gaetano, inteso Stefano, sprofondava in preghiere sempre più affannose. Non così a fondo però da non ricevere quella vociata come un'autentica scudisciata in mezzo alle scapole. In un modo istintivo di difesa incassò ancora di più il collo fra le spalle mentre le parole del padre che stava dicendo gli si scomponevano in sillabe senza significato. Poi, di scatto, rialzò la testa, spiritato. Sicuramente per merito di San Calogero, l'impressione avuta da quelle parole arrivata dalla sciata si stava agganciando in un'immagine precisa, in un suggerimento certo. Giù, nella carrozzeria, fruste e zotte da carretto ce n'erano in abbondanza. Ma non se la sentiva di scendere fino a piano terra, a rischio di incontrare i serbi o qualcuno di casa che l'avrebbero fatto parlare. Se apriva bocca, sarebbe stato solo per dire preghiera. Oramai in piedi e al centro della camera, si tagliò con furia intorno, preso da una potente smania di fare subito quello che miracolosamente gli era stato suggerito di fare, ma non vide nulla che potesse servire allo scopo. Tutto insieme gli venne in mente che nel tetto morto c'erano delle vecchie zotte fatte da canna e da corde intrecciate. Avere il pensiero e trovarsi a salire a due gli scalini che portavano al tetto morto fu tutt'uno. E manco girò lo scoppo per entrare. Da sempre sapeva che bastava un calcio perché la porticina si spalancasse. Fin dalla soglia colse subito l'angolo di fondo presso il quale stavano appoggiate due o tre zotte con i nastrini colorati, quelle che si usano quando a cavallo e carretto venivano parati a festa. E nello stesso momento, mentre verso di esse si muoveva a braccia tese, con la coda dell'occhio sinistro registrò presso la finestra un rapido, violento movimento che portò a uno sdoppiamento di sagome contro luce. Mia moglie è il muto. E martedì, giorno di lezione, pensò mentre pigliava in mano una zotta e quasi gli venne di baciarla, ma si trattenne considerando che quelli lo stavano tagliando. Tornando indietro di corsa, registrò questa volta con la coda dell'occhio destro la faccia spaventata di Elke, che se ne stava a braccia larghe, impiccicata al muro che pareva una di quelle farfalle che si inchiovano con lo spillo, e la faccia avvampata del muto che si teneva curvo. Una scimmia, dondolando avanti e indietro, le mani messe a coprirsi dove uno tiene le vergogne, quasi che si aspettasse di essere presa a pedate in quel posto, va. Non richiuse la porticina perché già dentro il tetto morto stava levandosi la giacca. La camicia la lasciò cadere mentre rifaceva le scale. La maglia, che portava pesante, magari d'estate, essendo assai cagionevole di salute, se la sfilò proprio davanti alla porta della sua camera, dentro la quale, finalmente, tornata a inginocchiarsi, cominciò a prendersi a zottate violente. Una, due, tre, sempre più forti e sempre più veloci. Una volta che uno ci aveva preso la mano, diventava più facile. La zotta non si indurcioniava, qua e là a caso, ma andava al punto giusto e il dolore diventava così lungo e costante che quasi non si sentiva più. Continuò caparbiamente, mentre dalla bocca gli usciva un lamento paro paro, fino a quando si trovò stesa a terra e per le lacrime non vedeva manco più le fiammelle dei lumini. Fatama la Madonna questa grazia, supplicò ancora dal profondo del suo dolore prima di abbandonarsi sfinito. Fu allora che fastidiosa, assurda per quell'ora e per quella situazione, alla mente gli tornò precisa la scena del tetto morto.